Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Erano le 8 di sera quando sbarcammo. Passeggiammo un poco sulla spiaggia per godere dell'ultima luce e poi ci ritirammo nella locanda e ammirammo il meraviglioso panorama delle acque, dei boschi e delle montagne che, pur velate nelle tenebre, stagliavano ancora contro il cielo i neri contorni. Il vento che era calato da sud si levò allora con gran violenza da ovest. La luna aveva raggiunto il sommo del cielo e cominciava a scendere. Le nubi le passavano dinanzi più veloci del volo di un avvoltoio e ne offuscavano i raggi, mentre il lago rifletteva un cielo burrascoso, reso ancora più inquieto dall'agitarsi delle onde che cominciavano a rinforzare. All'improvviso cadde un violento scroscio di pioggia. Mi ero mantenuto calmo per tutto il giorno, ma non appena la notte oscurò la forma delle cose, mille timori sorsero nel mio animo. Mi feci trepidante e guardingo, e con la destra stringevo una pistola che recavo celata in petto. Ogni suono mi atterriva, ma ero deciso a vendere cara la vita e a non ritirarmi dall'imminente lotta, se non quando io o il mio nemico fossimo morti. Elisabeth osservò per qualche tempo la mia agitazione in un silenzio timido e impaurito, ma c'era qualcosa nel mio sguardo che le comunicò il mio terrore e, tremando, mi chiese: «Che cosa ti rende inquieto, mio caro Victor? Che cosa temi?» «Non preoccuparti, amore mio», risposi. «Ancora questa notte saremo salvi, ma questa notte è terribile, terribile davvero». Passai un'ora in questo stato d'animo quando a un tratto pensai quanto sarebbe stata spaventosa per mia moglie la lotta che mi attendevo da un momento all'altro. La pregai allora ansiosamente di ritirarsi, deciso a non raggiungerla fino a quando non avessi saputo qualcosa sulle intenzioni del mio nemico. Mi lasciò, e io continuai per qualche tempo a passeggiare su e giù per i corridoi della casa, ispezionando ogni angolo che potesse offrire un nascondiglio al mio avversario. Ma non ne vidi traccia, e già cominciavo a pensare che qualche fortunata circostanza gli avesse impedito di mandare a effetto la sua minaccia, quando a un tratto udii un urlo acuto e terribile. Veniva dalla camera nella quale Elisabeth si era ritirata. Come lo udii, la verità mi balenò alla mente. Le braccia mi ricaddero lungo i fianchi, ogni muscolo e ogni fibra mi si paralizzarono. Sentivo il sangue scorrere nelle vene e formicolare l'estremità delle membra. Questo stato di impotenza durò solo un istante. Il grido si ripeté e io mi precipitai nella stanza. Gran Dio! Perché non morii allora? Perché sono qui a narrare la distruzione della più bella speranza della più pura creatura di questa terra? Ella era là, inanimata e senza vita, stesa di traverso sul letto, il capo penzolante verso il basso, il viso pallido e alterato seminascosto dai capelli. Dovunque mi giri vedo la stessa cosa, le sue braccia esangue, il suo corpo abbandonato dall'assassino. Sulla bara nuziale, come ho potuto vedere una cosa simile e rimanere in vita? La vita è ostinata e si abbarbica laddove più è invisa. Per un momento persi conoscenza e caddi a terra, privo di sensi. Quando mi ripresi, mi ritrovai circondato dalla gente della locanda. I loro volti esprimevano un terrore senza nome, ma l'orrore degli altri era solo una beffa, un'ombra dei sentimenti che opprimevano me. Fuggii da loro e corsi nella stanza dove giaceva il corpo di Elisabeth, del mio amore, di mia moglie, viva fino a pochi istanti prima, cara e preziosa. Era stata mossa dalla posizione in cui l'avevo vista. Così come giaceva ora, con il capo appoggiato a un braccio e un fazzoletto steso sul viso e sul collo, avrei potuto credere che dormisse. Mi precipitai verso di lei e l'abbracciai con ardore, ma il languore mortale e il gelo delle sue membra mi dissero che quella che ora stringevo fra le braccia aveva cessato di essere l'Elisabeth che avevo amato e adorato. Sul suo collo c'erano le tracce della stretta assassina del demone, e il respiro aveva cessato di uscire dalle sue labbra, mentre ero ancora chino su di lei nell'impeto della disperazione. Mi accadde di alzare gli occhi. Le finestre della stanza prima erano chiuse, perciò provai una specie di panico nel vedere la pallida luce lunare che illuminava la camera. Le imposte erano state spalancate con un senso di orrore che non si può descrivere. Scorsi alla finestra aperta, la più ripugnante e odiosa delle figure. C'era un ghigno sul viso del mostro. Sembrava schernirmi mentre indicava con il dito infernale il cadavere di mia moglie. Mi precipitai verso la finestra e, cavata la pistola dal petto, feci fuoco, ma egli mi evitò, balzò via dal luogo dove si era appostato e alla velocità della folgore si tuffò nel lago. La detonazione richiamò una gran folla nella camera. Indicai il punto dove era scomparso. Lo inseguimmo con barche, gettammo reti, ma invano. Dopo alcune ore ritornammo senza speranza. La maggior parte dei miei compagni credeva si trattasse di un fantasma creato dalla mia fantasia. Come sbarcammo, presero tuttavia a battere la campagna e i gruppi si sparpagliarono in direzioni diverse fra i boschi e le vigne. Cercai di accompagnarli e mi allontanai per un breve tratto dalla casa, ma mi girava la testa, camminavo barcollando come un ubriaco e infine caddi in uno stato di totale sfinimento. Un velo mi copriva gli occhi e il calore della febbre mi bruciava la pelle. In questo stato fui riportato indietro e messo a letto, senza quasi rendermi conto di ciò che era accaduto. Il mio sguardo vagava per la stanza come a cercare qualcosa che avevo perduto. Dopo un poco mi alzai e, come per istinto, mi trascinai nella camera dove giaceva il corpo della mia amata. Intorno al letto c'erano delle donne che piangevano. Mi chinai su di esso e unii le mie lacrime alle loro. E in tutto questo tempo nessuna idea chiara mi passò per la mente. I miei pensieri vagavano da un argomento all'altro, riflettendo sulle mie sventure e sulla loro causa. Mi trovai avvolto in una nube di sbalordimento e di orrore. La morte di William, l'esecuzione di Justine, l'assassinio di Clerval e poi quello di mia moglie. In quel momento non sapevo neppure se i cari che ancora mi rimanevano fossero al sicuro dalla malvagità del mostro. Forse proprio allora mio padre si stava torcendo nella sua stretta, forse Ernest giaceva morto ai suoi piedi. Quest'idea mi fece rabbrividire e mi spinse all'azione. Balzai in piedi e decisi di tornare a Ginevra il più presto possibile. Era impossibile procurarsi i cavalli e dovevo ritornare attraverso il lago. Ma il vento era contrario e la pioggia cadeva a torrenti. Comunque era appena mattino e potevo ragionevolmente sperare di arrivare prima di sera. Assoldai alcuni uomini per la voga e presi io stesso un remo perché sempre la fatica fisica mi aveva dato sollievo dalle torture della mente, ma la terribile angoscia che mi pervadeva e la spaventosa agitazione che dovevo sopportare mi rendevano impossibile ogni movimento coordinato. Gettai il remo e, appoggiata la testa sulle mani, diedi libero corso alle cupe idee che mi turbinavano per il capo. Se alzavo gli occhi, vedevo scene che mi erano state familiari in tempi più felici che solo il giorno prima avevo contemplato in compagnia di colei che, ora, era soltanto un'ombra e un ricordo. Lacrime mi sgorgarono dagli occhi. La pioggia era cessata per un momento e vedevo i pesci guizzare nell'acqua come avevano fatto poche ore addietro, quando Elisabeth li aveva notati. Nulla è più penoso all'animo umano di un mutamento drastico e repentino. Il sole poteva risplendere, le nuvole potevano abbassarsi, nulla mi sarebbe apparso quale era stato il giorno precedente. Un nemico mi aveva tolto ogni speranza di felicità. Nessuna creatura era mai stata sciagurata quanto me. Un evento così terrificante era unico nella storia dell'uomo. Ma perché indugiare su ciò che seguì quell'ultimo avvenimento sconvolgente? La mia è stata una storia di orrore. Ho raggiunto l'acme e ciò che ora mi rimane da narrare non potrà che annoiarvi. Sappiate che a uno i miei cari mi furono strappati. Rimasi solo. Le mie forze sono esaurite e devo narrarvi in poche parole la conclusione del mio spaventoso racconto. Arrivai a Ginevra. Mio padre ed Ernest erano in vita, ma il primo venne meno sotto il colpo delle notizie che gli portai. Anche ora mi pare di vederlo eccellente e venerabile vecchio. I suoi occhi avevano un'espressione vacua, privati di ciò che dava loro luce e gioia. La sua Elisabeth, colei che amava più di una figlia, colei sulla quale concentrava tutto l'affetto di un uomo che sul finire della vita si lega ancora più strettamente ai pochi cari che gli rimangono. Maledetto, maledetto sia il demone che portò l'infelicità sul suo capo canuto e lo condannò a morire di dolore. Non poté sopravvivere agli orrori che gli si erano accumulati attorno. Le molle dell'esistenza di improvviso cedettero. Non riuscì più ad alzarsi dal letto in pochi giorni. Spirò fra le mie braccia. Che avvenne di me? Non lo so. Persi la percezione di quanto mi avveniva attorno. Ero come oppresso da tenebre e catene. Qualche volta, è vero, sognavo di camminare per prati in fiore e valli ridenti con gli amici della mia gioventù, ma mi svegliavo e mi ritrovavo in una prigione. Caddi allora nella più tetra melanconia. A poco però riuscii a farmi un'idea più chiara delle mie sciagure e della mia situazione e fui alla fine liberato da quella prigione, perché ero stato dichiarato folle e per molti mesi, come seppi poi, una cella solitaria era stata la mia abitazione. Ma la libertà sarebbe stata per me un dono inutile se assieme alla ragione non si fosse destato in me il desiderio della vendetta. Appena mi tornò il ricordo delle mie passate sciagure, presi a riflettere su ciò che stava alla loro origine. Il mostro che avevo creato, il miserabile demone che io avevo scatenato per il mondo perché mi distruggesse. Mi sentivo invadere da un'ira folle quando pensavo a lui, e bramavo e pregavo ardentemente di poterlo avere un giorno tra le mani per calare una terribile vendetta sul suo capo maledetto. Né il mio odio si limitò a inutili desideri. Cominciai a riflettere sul modo migliore di catturarlo, e a questo fine, circa un mese dopo che ero stato rimesso in libertà, mi recai da un giudice penale della città e gli dissi che avevo un'accusa da presentare. Sapevo chi era il distruttore della mia famiglia e chiedevo che egli mettesse in opera tutta la sua autorità per la cattura dell'assassino. Il magistrato mi ascoltò con attenzione e gentilezza. Disse: «State sicuro, signore, che non risparmierò alcuno sforzo per trovare il colpevole». E risposi: «Vi ringrazio. Ascoltate dunque la deposizione che devo fare. È una storia strana alla quale voi, temo, non prestereste fede se non fosse in essa qualcosa che, per quanto straordinario, ha un suono di verità. La mia narrazione è troppo coerente per essere scambiata per un sogno, né d'altra parte io ho motivo di affermare il falso». I miei modi, mentre così mi rivolgevo a lui, erano tali da impressionare, ma calmi. Avevo deciso, in cuor mio, di perseguitare il mio distruttore fino alla morte, e ciò valeva a placare la mia angoscia e a riconciliarmi con la vita. Narrai quindi la mia storia brevemente ma con fermezza e precisione, citando date con accuratezza e senza mai indulgere a invettive o esclamazioni. Sulle prime il magistrato parve assolutamente incredulo, ma a mano che continuavo, si mostrò più attento e interessato. Ora lo vedevo rabbrividire per l'orrore, ora un vivo stupore, senza ombra di incredulità, si dipingeva sul suo viso. Giunto al termine del mio racconto, dissi: «Questo è l'essere che accuso. Vi chiedo di esercitare tutto il vostro potere per catturarlo e punirlo. È il vostro dovere come magistrato, e credo e spero che in questa circostanza i vostri sentimenti di uomo non vi tratterranno dall'adempiere le funzioni che la vostra carica comporta». Questa esortazione provocò un notevole mutamento nella fisionomia del mio interlocutore. Egli aveva ascoltato il mio racconto con quella specie di credito che si concede a una storia di spiriti o di eventi soprannaturali, ma quando gli chiesi di agire di conseguenza, in veste ufficiale, tutta la marea della sua incredulità tornò a sollevarsi. Rispose tuttavia cortesemente: «Vi concederei volentieri ogni aiuto possibile nelle vostre ricerche, ma la creatura di cui parlate sembra possedere poteri tali da rendere inefficaci tutte le mie risorse. Chi può seguire un animale in grado di traversare il mare di ghiaccio e di abitare in caverne e tane dove nessun uomo oserebbe avventurarsi? Inoltre, sono trascorsi alcuni mesi da quando ha commesso quei delitti e chi può indovinare in quale località si sia spinto, in quale regione possa ora celarsi? Egli vaga nei pressi del luogo dove abito io, ne sono certo. E se poi si fosse rifugiato sulle Alpi, si potrebbe cacciarlo come un camoscio e distruggerlo come un animale da preda. Ma io vedo quali sono i vostri pensieri. Non credete al mio racconto e non intendete dare la caccia al mio nemico per infliggergli la punizione che si merita». Mentre parlavo, i miei occhi si accesero d'ira e il magistrato ne fu intimidito. Disse: «Vi sbagliate. Io farò del mio meglio, e se è mio potere catturare il mostro, state pur certo che gli sarà inflitta una punizione proporzionata ai suoi crimini. Ma da ciò che voi mi avete detto sulle sue caratteristiche, temo che la cosa riesca impossibile e che, anche se si prenderà ogni misura necessaria, voi dobbiate cercare di prepararvi a una delusione». «Ma non è possibile. Tutto quello che potrei dire non servirebbe a nulla. La mia vendetta non conta per voi, mentre, pur sapendo che si tratta di un peccato, devo confessare che essa è la sola divorante passione della mia anima. Indicibile è la mia ira quando penso che l'assassino, da me scatenato fra gli uomini, è ancora in vita. Voi respingete la mia legittima richiesta. Non mi resta che una risorsa: dedicarmi, in vita o in morte, alla sua distruzione». Pronunciando queste parole tremavo di collera. C'era nel mio contegno un che di frenetico e qualcosa, credo, di quella altera fierezza che si dice possedessero i martiri. Ma agli occhi di un magistrato di Ginevra, la cui mente era occupata da ben altre idee che la devozione e l'eroismo, questa esaltazione dell'animo doveva apparire molto simile alla pazzia. Si sforzò di calmarmi, come avrebbe potuto fare una nutrice con un bimbo, e attribuì la mia storia a un effetto del delirio. «Uomo», esclamai, «quanto ignorante sei nella tua presunzione! Taci! Non sai quello che dici!» Mi precipitai fuori da quella casa furibondo e disgustato, e mi ritirai a meditare qualche altro piano d'azione. ad alta voce. Tommaso Ragno ha letto Frankenstein di Mary Shelley. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.